e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Chiunque può sbagliare. Accettate l'errore e cercate di correggerlo. Io non credo che l'errore debba essere punito. La mia idea è trovare l'errore e cominciare ad agire correttamente. Ciò è chiamato flusso della vita, continuità della vita. Yogi Bhajan. E a proposito di continuità, ciao Deborah. Buongiorno. E un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Oggi Cuore Denari continua a trasmettere dal Salone del Risparmio al MICO Milano Congressi. Siamo qua, oggi è una giornata particolarmente vivace perché c'è l'apertura al pubblico, stanno arrivando tante scuole, per cui c'è un bel affollamento, grande energia. Terminano questi tre giorni investiti bene. Allora Speriamo. Noi abbiamo pensato di chiudere in bellezza, quindi venite a trovarci, che quella è già una bella cosa. così ci incontriamo, ma abbiamo pensato di prendere un po' il fiato e soprattutto riflettere, mettere in collegamento mente e corpo, proprio dopo una tre giorni così ricca di stimoli, di spunti interessanti, di riflessioni, di contatti. E allora abbiamo deciso oggi di parlare di yoga, che è un vero e proprio toccasana, perché le ricerche dimostrano riduce i livelli di ansia, di stress, livelli che sono particolarmente alti. Deborah, tu mi insegni, per chi lavora nel mondo finanziario, dove l'ansia, no, dei mercati che vanno su e giù mette a dura prova la salute anche del nostro cuore, inteso in senso lato. E allora preparatevi, perché oggi vi metteremo alla prova. Ci sono un'infinità di ricerche che dimostrano che lo yoga fa bene e soprattutto piace a chi si intende di denari, non solo a chi li possiede, ma c'è anche l'altro lato della medaglia, perché lo yoga non è sicuramente la panacea di tutti i mali. Intanto, se praticate o se qualcosa dello yoga vi interessa, chiamateci, perché cercheremo di scoprire tutte le note interessanti che lo yoga può darci, ma anche i limiti di questa disciplina, cura, moda. Come potremmo definirla? Lo scopriremo nel corso della trasmissione. Allora, anche per quello che riguarda il tema di denari, oggi invitiamo i nostri ascoltatori ad un po' di meditazione, se vogliamo, perché torniamo a proporre un tema che effettivamente ha bisogno per qualcuno di essere affrontato con grande spirito di concentrazione. Parliamo del rapporto delle persone italiane, delle famiglie italiane, dei cittadini italiani con l'educazione finanziaria. Sì, lo so che vi stressiamo tanto con questo argomento, ma noi vogliamo fare ogni sforzo possibile per far accrescere la vostra cultura su questi argomenti. È un tema certamente considerato molto importante qui in questa occasione del Salone del Risparmio, ma è anche un po' il tema del momento. Non vorrei che diventasse un po' anche fin troppo cavalcato. Se ne parla in ogni luogo possibile, torna puntualmente alla ribalta della cronaca, in particolar modo nel nostro paese, quando si verificano i casi di risparmio tradito. Basti ripensare all'ultima situazione delle cosiddette quattro banche risolte lo scorso novembre, ma se ne parla anche quando, Nicoletta, noi questi mercati, ti faccio vedere questa piattaforma tutti i giorni, tu mi sei anche un po' nauseata. No, mi piace, però la borsa oggi è buona, guarda. Eccola lì. Cosa mi fa il FTSE MIB oggi più? 2.37. Hai vedi? Visto che hai imparato anche tu a leggere la piattaforma? Sì, poi ci sono tutte queste lucine che si accendono. Esatto. Lei praticamente legge la pagella. La maestrina sono io, ma lei legge i voti della pagella. Esatto. Oggi vanno molto bene i titoli bancari, che sono stati tanto colpiti dalle vendite, bastonati in questi giorni. Quindi è in questo frangente in cui insistiamo tanto con i nostri ascoltatori sul tema dell'educazione finanziaria. Quanto ne sapete di questi argomenti? Quanto ne sapete di azioni, obbligazioni, come si apre il conto corrente, come si sottoscrive il mutuo? Noi oggi di tutto questo parleremo in un'occasione speciale del Salone del Risparmio, perché qui da oggi partono gli stati generali dell'educazione finanziaria, per cui vogliamo sapere la vostra su questo tema. Come vi informate? Siete stufi di sentir parlare di questo? Oppure, come dire, buona cosa prepararsi sempre meglio? 800 24 00 24. E allora noi ossigeniamoci, ci ossigeniamo anche scoprendo, no, delle posizioni yoga, le asana, magari chissà, quelle che fanno la volta buona ci fanno circolare, no, un po' di sangue e di ormoni e di neuroni che si accoppiano. Allora, bello è bello ed è anche famoso, il primo ministro canadese Trudeau in rete sta girando una sua foto che lo immortala mentre sta praticando yoga sulla scrivania. Ecco, vedi che sulla scrivania si fa anche yoga. Va bene, no, un bel modo per utilizzarla, no? Si potrebbe fare anche altro, ma anche yoga. Naturalmente la foto è un po' vecchiotta, è del 2013, ma adesso che Trudeau è premier è diventata virale. Chissà con quali foto diventeremo famose noi. Allora, magari chiediamole agli ascoltatori come, che tipo di foto nostre vorrebbero vedere. Ecco, allora scriveteci. Chiedete la mia, che leggo il Financial Times, perché non la troverete mai da nessuna parte. Ecco. Allora, noi ci siamo lasciati ispirare da Trudeau, perché abbiamo detto, se piace al primo ministro, vuoi, magari piace anche ai nostri ascoltatori che ci stanno seguendo, e soprattutto ai tanti ascoltatori che ci vengono a trovare, i visitatori del Salone del Risparmio. E sembra che, almeno così dicono le ricerche, lo yoga seduca un po' tutti, dai politici ai broker, agli esperti di finanza, fino però alle persone comuni come me. Allora, qui in studio abbiamo Benedetta Spada, che è insegnante mindfulness e yoga. Ciao, benvenuta e grazie. Ciao Nicoletta, ciao Deborah. Benvenuta. Senti, allora Trudeau fa il pavone. Fa il pavone sulla scrivania, magari anche nella vita. Comunque è bello, importante, lo lasciamo. Sfoderla la coda tutta colorata. Ecco, com'è questa posizione del pavone? A me sembra un po' complicatina. Molto, molto intensa, molto maschile. E tra l'altro un po' riassume quello che è l'origine dello yoga. Cioè questa idea dello yoga che dà superpoteri, successo, affermazione. Ma è anche una postura che fa molto bene agli organi interni. Infatti detossina tutto il nostro corpo dai pensieri negativi, da tutte quelle cose che noi ci prendiamo quando siamo arrabbiati, no? O mangiamo male. Quella postura aiuta a migliorare tutto il nostro sistema immunitario. Senti, ma quindi per descriverla, sicuramente ha fatto il giro del web e tutti l'hanno hanno presente, poi lui è un bell'uomo, diciamo la verità, sì. Deve avere anche una bella muscolatura. Sì, sì, sì, sì. Ecco, perché yoga, noi abbiamo l'idea dello yoga come di quell'omino che è seduto lì fermo con le gambette incrociate, di solito sono un po' magri. Invece adesso io vedo che chi pratica yoga c'ha un fisico, sì, il fisico... hanno anche la tartaruga. Assolutamente. Quindi lo yoga anche tonifica, scolpisce. Assolutamente. Senti, tornando al nostro pavone. Tutti che gli animali praticamente, ecco, stamattina abbiamo scomodato. Sulla scrivania. Sulla scrivania. Si fa solo sulla scrivania, o si può fare anche altrove? No, si può partire da terra, diciamo che sulla scrivania è già per avanzati, quindi si parte da terra in ginocchio, aprendo le ginocchia si mettono i gomiti proprio sotto l'addome, le mani sono rivolte verso le ginocchia, quindi ruotate indietro, e si inizia a sospingere il peso appunto sui gomiti in avanti, piano si prova a distendere una gamba per volta, ma molto lentamente, perché quindi, sennò uno si incrania, va in avanti. Esatto. Allora, altre posizioni, tu mi hai detto è una posizione particolarmente maschile, perché ci sono più posizioni più maschili che femminili? Beh sì, lo yoga raccoglie innanzitutto lo yoga nasce, e qui adesso lo diciamo una volta per tutte, per gli uomini. Cioè oggi le donne spesso sono le maggiori affini praticanti allo yoga, ma in realtà nasce per gli uomini. Era una pratica che veniva indirizzata ai guerrieri, cioè gli uomini praticavano yoga per prepararsi alla guerra ed essere invincibili. Quindi diciamo che la maggior parte le posture sono molto intense, molto maschili, poi hanno anche approcci femminili. Ecco perché gli uomini che si occupano di finanza dovrebbero forse praticarne un po' di più, perché qua sono in guerra ogni giorno tra mercati e clienti. Infatti piace molto. Allora 800 24 00 24, raccontateci, ma che tipo di interventi vogliamo, Deborah? Ma guarda, allora, visto che siamo al Salone del Risparmio, sentiamo un po' se questi operatori del mondo finanziario, devo dirti che inaspettatamente hanno già raccolto spontaneamente l'invito, se questi uomini della finanza hanno bisogno di meditazione e concentrazione per affrontare i venti in tempesta nel mondo finanziario, ma anche per affrontare il dialogo con i clienti, che è molto complicato, perché a volte non si sa che cosa vogliono, e oggi il mercato offre come rendimenti zero. Sotto zero. Tra l'altro, un testo indiano classico, molto amato da Gandhi, sono andata un po' a vedere, definisce lo yoga come abilità nelle azioni. Esatto. E quindi, vedi, questa è una mano santa. Andiamo a sentire che cosa ci raccontano i nostri ascoltatori. Guarda, neanche lo avessimo cercato proprio con il lanternino, è arrivato Luca dalla provincia di Firenze, che salutiamo. Luca, benvenuto. Buongiorno, salve, seguo volentieri le vostre conversazioni e il modo in cui esponete degli argomenti apparentemente ostici per il pubblico in maniera soft. Ecco, potrebbe rimarcare questo concetto, Luca, vigorosamente? Sì. Allora, uno, siete degli speaker, dei giornalisti donne, e questo è molto importante. Ve lo dico perché il titolo, secondo me, Cuore Denari, è azzeccatissimo. diffondere una buona coscienza del risparmio economico e una metodologia nell'affrontare i problemi quotidiani, come fate voi, è raro. Sia radiofonicamente che telefonicamente. Avevamo bisogno di questa pacca sulla spalla, Luca, per cui la ringrazio molto. E adesso le facciamo fare la domanda fine al tema di oggi. Grazie, Luca. Vada. Ero io che dovevo fare la domanda. Esatto, si era dimenticato nel frattempo. No, lei voleva raccontarci che lavora lavora seguendo le banche, non ho capito, un tecnico informatico. Seguo le banche come tecnico informatico. E sono a sentire spesso presso quelle persone che fanno non i promotori ma i gestori finanziari, sento le cose che dicono i risparmiatori. Io sono stato anche bancario all'inizio degli anni 90 e sento delle cose di mancanza totale di consapevolezza. Devo dire che quelle persone, gestori che ho sentito parlare, sono persone di specchiata onestà, che non propongono nulla di irrazionale e di non commisurato alla persona che hanno di fronte. Ovviamente non faccio il nome delle certo. banche. No, certo. Luca, volevo relazionare le sue riflessioni. L'ignoranza profonda di quelle persone che vanno lì a chiedere dove sono e come sono investiti e come possono investire decine e a volte centinaia di migliaia di euro, le assicuro, da persone il cui profilo sarebbe insospettabile, anche contadini, che hanno un sacco di soldi. Luca, la devo interrompere. Luca, allora, io credo che di tutte le ricerche che sono state fatte sullo yoga aumenta la consapevolezza, lavora sul respiro, ossigena il cervello, però non è che ci rende più intelligenti, questo e neanche esatto. più oculati. Qua bisogna ascoltare il cuore dei denari. Luca ha fatto anche yoga, Luca so che voleva raccontarci yoga. Questo. Luca, no? Ne ha trovato vantaggio? Allora, lo yoga è ottimo. È praticato da quelli che non ci mettono, da quei maestri, maestre, che non ci infilano dentro una serie di sciocchezze tantriche, cioè come ginnastica, stretch e potenziamento. Quindi Luca dice, Benedetta, andiamo all'essenziale. Grazie. Quindi sì, non d'accordo. Tanta teoria come ci chiedono, no? Ma molto pratica, consigli pratici, mordi e fuggi. Sì. Io me lo porto a casa. Che cosa ci possiamo portare a casa dallo yoga che possiamo praticare anche a casa nostra? Beh, e questo è un risparmio. Sì, assolutamente, sicuramente questo rapporto corpo-mente, cioè dove corpo e mente sono in dialogo e creano un equilibrio. Tra l'altro Luca ha messo un accenno anche sul fatto proprio di essere concreti in quanto essere pratici nell'insegnamento senza andare a ripescare nell'esoterismo antico che dal quale lo yoga ormai si è staccato. Allora ci fermiamo perché è tempo di andare a sentire che cosa succede sulle strade. Ritorniamo subito dopo insieme e abbiamo anche Marcello da Firenze. A tra poco. Cuore e denari. Lo yoga è un prezioso regalo dell'antica tradizione indiana. Incarna l'unità di mente e corpo, pensiero e azione, moderazione e appagamento, armonia tra uomo e natura, un approccio olistico alla salute e al benessere. Non si tratta di semplice esercizio, ma di un mezzo per scoprire il senso di unità con se stessi, il mondo e la natura. Con queste parole il primo ministro indiano Deborah Narendra Modi ha presentato lo yoga all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite proprio lo scorso giugno. Soma e psiche, corpo e mente, no? Che sono le nostre due facce, le nostre due dimensioni, sappiamo che si parlano, si condizionano a vicenda, lo sperimentiamo noi quotidianamente e che del benessere dell'uno dipende quello dell'altra dimensione. Però senza rendercene conto tendiamo istintivamente a privilegiare una delle due parti. Allora guardatevi intorno, pensate anche ai vostri amici, ai vostri colleghi e a voi stesse, invece lo yoga invita a metterci un po', no, in assetto, in equilibrio, quindi a intrecciare queste nostre due dimensioni. Abbiamo in linea con noi un altro ospite, abbiamo invitato il dottor Arsenio Beksteinas, giusto? Perfetto. Dottor ecco, perché è più complicato pronunciare il suo cognome che fare la posizione del pavone, che è direttore del Centro di Medicina dello Sport alla Fondazione Dognocchi di Milano. Dottore, tantissime ricerche dicono che lo yoga fa bene, ma lei che è un medico, come definirebbe lo yoga? Una disciplina, un modo per stare bene, una sorta di cura, una serie di posizioni che in qualche modo restituiscono benessere? Che cos'è? Senta, lo yoga è una cosa complicatissima e oggi è un termine molto ampio e coinvolge tantissime cose, per cui realmente che cos'è lo yoga è difficile definirlo, perché è uno yoga che privilegia l'aspetto esoterico che noi vogliamo abbandonare, almeno qui in Occidente si deve abbandonarlo, è uno yoga che predilige il problema psicologico e psichico, vi è uno yoga che predilige l'aspetto muscolare e vi è infine uno yoga che predilige un po' tutte queste cose. Ma mi creda, ciascuno dà un'interpretazione di yoga in modo molto personale. Quindi noi quando andiamo a iscriverci, Benedetta, ad un corso di yoga, dobbiamo anche capire che tipo di yoga andremo a fare. Sì, assolutamente. E tra l'altro capire anche che in questo momento, proprio come diceva appunto il dottore, essendoci una grande volgarizzazione dello yoga, è necessario anche capire che ci sono molti insegnanti inesperti, quindi saper scegliere magari appunto anche attraverso l'esperienza dell'insegnante. Ecco, perché parleremo anche dell'altro lato dello yoga, no? Non è la panacea per tutti i mali. Dottore, mi dà tre buone ragioni per un uomo e per una donna per praticare yoga come occasione anche di benessere? Ma le ragioni valgono forse per entrambi. Una ragione è certamente un miglioramento della propria condizione fisica, ma è globalmente considerata, perché attraverso un esercizio fisico che attiva i muscoli e che comporta quindi una serie di posizioni dove la concentrazione è massima, tutto ciò comporta un vero beneficio su tutto l'organismo. Però per raggiungere tutto ciò è indispensabile avere un buon maestro, un maestro che ti indirizzi molto bene, che ti segua molto bene almeno per un certo periodo di tempo, finché il discente ha veramente imparato ed è entrato nello spirito dello yoga e sa fare gli esercizi in modo corretto, perché è anche facile farsi del male se le cose vengono fatte in modo scorretto. Lei pensi, si parlava prima di questo primo ministro che fa quei giochini sulla scrivania, lei pensi se in quel momento perde l'equilibrio e cade e si incragna sulla scrivania. Ecco, senta dottore, dottore, lei è un medico insegna, è direttore del Centro di Medicina dello Sport. Sì. Allora, per i nostri ascoltatori sono molto sportivi, abbiamo tanti ascoltatori che praticano la corsa, perché runner non piace. Assolutamente, ma, corrono, vanno in palestra, certo, eccetera. Allora, lo yoga a chi aiuta? Aiuta anche a fare la tartaruga, cioè a scolpire la pancia? Ma secondo me più che la tartaruga aiuta anche a scolpire la pancia se è praticato uno yoga ovviamente non di tipo meditativo, ma dove l'impegno muscolare è notevole ed è quello che ti permette di fare le varie posizioni, le varie asana. Ma dopo mesi di lavoro intenso e impegnativo può anche emergere la tartaruga e si può anche ottenere un addome piatto per le signore. Tanto è vero che se lei va, noi abbiamo fatto un'indagine sugli insegnanti di yoga, questi dopo qualche anno di attività hanno un fisico perfetto che si mantiene poi negli anni. Infatti Benedetta Spada devo dire che ha un fisico assolutamente perfetto. Yoga anche per la prevenzione di alcuni infortuni che possono capitare, soprattutto per chi a livello amatoriale pratica la corsa, va in bici, magari non ha tempo di allenarsi con costanza e quindi quando fa l'uscita settimanale poi si fa male? No, direi questo no. Questo non me lo passa. No, questo non glielo passo. Va benissimo andare in bicicletta, a correre, naturalmente tutto va fatto con un minimo di intelligenza e soprattutto avendo ben chiaro che almeno una volta all'anno, una volta ogni 2 anni, un controllo medico, possibilmente presso un centro di medicina dello sport che è deputato proprio che ti dà un po' il quadro della situazione. Ogni tanto un controllo va fatto. Allora, dottore, noi la salutiamo perché dobbiamo dare tra poco anche la linea al nostro GR. Grazie per essere stato con noi. Continuiamo a parlare di yoga, ma soprattutto a darvi delle indicazioni molto pratiche, un po' all'amor di Fuggi, così troverete tutte le occasioni per aumentare il vostro benessere o ritornare ad una condizione di benessere. Se siete stressati, se avete dolorini, se avete un tarlo in testa che continua ad arrivare, se vi manca il fiato, se siete poco allenati e lo toccate con mano quando andate a correre, chiamateci, perché la dottoressa, posso chiamarti così, Benedetta Spada, ci darà delle indicazioni, ci farà magari, ci suggerirà delle asana, delle posizioni, ma soprattutto ci aiuterà a rimettere in equilibrio corpo e mente, abilità nelle azioni, serve in ogni campo, credo. GR. L'unico inimitabile programma di attualità ottimista. Siamo sicuri di farcela? Sicurissimi. Allora che la forza sia con noi. Si può fare con Alessio Maurizi e Carlo Gabardini, il sabato alle 7:30 e la domenica alle 8:30. Su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... Scegli Pantera col TH. Scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. State ascoltando un programma offerto da... Scegli Anima, miglior gestore fondi italiani big al premio alto rendimento 2015 del Sole 24 Ore. Cuore e denari. Siamo ritornati insieme. Che cosa stavate pensando? Cosa stavate facendo? Allora, tornate con noi. Deborah mi sta accecando con una lucina. No, questo è l'elmetto dei metalmeccanici, gentilmente offerto dal Fondo Cometa. È arrivato qua il direttore generale Maurizio Agazzi, che ci ha gentilmente offerto molto questo carino. Cadeau. Molto carino. E anche un portachiavi. Modo gentile per parlare di fondi pensione. Chiusa parentesi. Allora, e noi di che cosa parliamo? Stiamo parlando di yoga. Ma perché ho portato l'attenzione sui pensieri? Perché ho trovato che, pensate, che si stima che ogni persona formuli al giorno circa 58.000 pensieri più o meno articolati. No, noi ne facciamo anche di molto basic. Comunque, queste continue interruzioni, proprio come quelle che siete costretti a fare voi mentre ci ascoltate, dovete rispondere al telefono, scendere dalla macchina, che cosa portano? Portano ad accentuare la naturale tendenza della nostra mente che, come succedeva a scuola, si disperde, no? Si diceva, suo figlio viene, si impegna, ma è svagato. Allora, se siete svagati, tornate con noi, 800 24 00 24. Parliamo di yoga, che induce la calma nella mente, rifocalizza l'attenzione aumentando la concentrazione, insomma una mano santa, soprattutto per chi si occupa di questioni legate ai denari. Insieme a noi c'è Benedetta Spada. Volevo leggervi i risultati di una ricerca. Perché? Perché praticare yoga? Perché riduce lo stress, perché ci regala un po' di tempo per noi, perché ci aiuta a respirare meglio. Sappiamo che il respiro, no, ossigena anche la mente, quindi ci fa diventare in fondo anche un po' più intelligenti, ma ritorna, ci dà anche una buona forma fisica. Solo un dato. Le ricerche dicono che rispetto a quanti fanno una vita sedentaria, Benedetta, nelle persone che praticano yoga da almeno 4 anni, che è un bel periodo, il grasso corporeo è ridotto del 40%, la massa muscolare è aumentata del 30-40%, le ossa sono più dense, la pressione sanguigna è più bassa, insomma si diventa come il nostro amico che faceva il pavone sulla scrivania, Trudeau. Bisogna comunque, cosa fare? Scegliere il maestro di yoga corretto, e qua dell'asino, perché le scuole di yoga fioriscono come le viole a primavera, ed è un attimo finire nelle mani sbagliate. Allora, Benedetta, tu devi aiutarci a smascherare il maestro di yoga cialtrone. Ecco. Ed è il cioccolataio. Ed è quello che mi piace fare, tra l'altro ci sto scrivendo anche un libro a riguardo. Quindi sì, buona parte degli insegnanti purtroppo è sempre più inesperta. Come come riconoscere un bravo insegnante. Innanzitutto, un centro può avere vari insegnanti e oggi è necessario chiarire che non bastano le classiche 200 ore che vanno tanto di moda, ma ci vogliono almeno 2-3 anni continuativi di scuola insegnanti e almeno 4 anni di pratica, perché molti insegnanti prendono un diploma ma senza essere praticanti, il che è impossibile. Non solo, allora, quando entriamo in un centro, se la lezione è stata creata dall'insegnante senza alcuna alternativa possibile alle varie posizioni proposte, già quello ci dà un primo campanello d'allarme, perché un bravo insegnante dà sempre un'alternativa alla sequenza che magari ha già ideato e pensato. Punto 2, un bravo insegnante darà sempre la priorità alla respirazione, quindi ancor prima di indurci a preparare una postura, magari anche molto intensa, l'esercizio sarà basato sulla capacità corretta di respirare, come utilizzare il respiro. Punto 3, un bravo insegnante non sovrappone il proprio ego all'allievo e quindi non pigia con la sua mano sull'allievo e non paragona mai l'allievo a qualcun altro. Questi sono già tre punti. Però, quindi se il maestro vi tocchiccia, andatevene, vero? Sì. Allora, 800 24 00 24, ci sono i nostri ascoltatori, c'è Marcello da Firenze, io l'avevo italianizzato il suo nome, ma dalla regia mi hanno detto che... Hanno tolto una L. Bisogna togliere la L, buongiorno. Spagnoleggiante, argentino. Buongiorno. Marcello, sì, buongiorno. Ci sono. Eccoci a lei. Allora, yoga da quanto, come e perché? Yoga da quanto? Iniziai nell'anno 88. Come? Perché era un periodo della mia vita che era un po' perso. Sì. E l'altra? Perché? E lei ha trovato... Ho trovato un maestro yoga che è proprio un swami, un monaco indù, insomma. Ho avuto fortuna in trovare... Giusto, vede, ecco. Perché la vita è fatta di incontri, Marcello, e meno male che l'abbiamo che abbiamo incontrato anche lei, e lei ha incontrato Cuore Denari, quindi in un momento difficile. Per la tradizione mi piace tantissimo. Grazie, anche lei ci piace molto, soprattutto quando ci dice queste cose così carine. Alberto da Milano, buongiorno. Alberto? Sì, mi sentite? Sì, adesso sì. Se parla, sì. Sì, allora sì, io pratico yoga da 5 anni, l'ho scoperto per caso, ero molto scettico e ho avuto un'esperienza molto positiva perché, pur essendo appunto molto sportivo, pensavo fosse statico, invece dopo mezz'ora che lo praticavo ho pensato che l'avrei fatto per tutta la vita e devo dire che è una pratica meravigliosa per chi lavora tanto, giusto sotto condizioni di stress, dà moltissimo al corpo e più avanti si va e anche molto alla mente. Avete detto tutta una serie di cose giuste, gli insegnanti sono fondamentali e fare una pratica corretta senza esagerare. Alberto, quale informazione importante, pratica, concreta, non abbiamo detto, magari c'è sfuggita, aggiunga lei un consiglio, mordi e fuggi, un sì, portateco per i nostri ascoltatori. Aggiungerei un evidenziare la semplicità invece di fare yoga, nel senso che una volta che si impara, una volta che si apprezza, basta stendere il tappetino, no? Bravo, lo yoga portateco, certo. E poi farlo e si risparmia ovunque e assolutamente. Poi ci vuole fare delle classi, sapere, conoscere, è importante. Certo, però mi sembra importante, Benedetta, grazie Alberto, queste informazioni in più. Si frequenta un corso fatto bene. Se lo yoga ti piace, perché ci sono, no, delle antipatie a pelle, certo, anche con lo yoga, certo, non possiamo non metterci tutti lì a fare yoga, anche se un po' aiuterebbe. Impariamo alcune asana, posizioni, come dir si voglia, la respirazione che tu adesso in chiusura di trasmissione ci aiuterai a fare, così ci distendiamo per anche il prossimo tema, perché dobbiamo avere una mente molto pronta, vero Deborah? Esattamente. Non fa mai a cosa. E ci facciamo le nostre posizioni, la nostra respirazione a casa, o quando il sangue ci va alla testa, siamo arrabbiati, quando il capo ci distrugge, quando ci sentiamo una schifezza, quando invece abbiamo bisogno di darci una coccola in più. Parliamo per un'indicazione al maschile, perché il nostro pubblico è molto maschile, ma non dimentichiamo anche le nostre ascoltatrici. Benedetta. Assolutamente, come tu hai già detto, ovunque, comunque, in qualsiasi momento, ad ogni età. Questo era anche il titolo di un articolo che scrissi qualche tempo fa. Quindi lo yoga come investimento sicuro e conveniente, il che significa ricavarsi durante l'arco della giornata, e parliamo per tutti di giornata lavorativa, dei momenti, guarda, bastano anche 2 o 3 minuti nel quale ritornare sul corpo. La mente, quando tende ad andare, appunto, come hai detto prima, tra questi 1000 pensieri, cosa fa? Va negli automatismi. Quindi perché spesso noi, appunto, perdiamo un investimento importante, rispondiamo alla cosa esattamente opposta a quella che vorremmo? Perché siamo nell'automatismo. Ritornare sul corpo, semplice, basta, non so, iniziare a contrarre la muscolatura partendo dai piedi, per esempio, quindi ritrarre un po' i piedi, contrarre i polpacci, le gambe, tutto il corpo gradatamente, e questo già ci permette di far smuovere la circolazione, di ossigenare meglio il sangue, ma non solo, e darci l'impressione di essere qui nel momento. Ora, un mio maestro diceva: tu devi sentirti qui fino alla punta del dito mignolo del tuo piede. Allora a quel punto tu sai che veramente stai facendo yoga, anche così, in questo momento, mentre stiamo parlando insieme. Ho contratto i piedi, ti dico, ecco, solo questo. Benissimo. Ma già questo, quante volte noi parliamo e ci dimentichiamo che abbiamo un piede? Non ce lo ricordiamo proprio, no? Questo, un altro esercizio semplicissimo che può essere fatto e che può essere anche un test per scoprire se il nostro battito del cuore è calmo, regolare, se la nostra circolazione è in stato ottimale, è quello, appunto, che io chiamo dello strizza e molla, che viene fatto all'altezza delle mani, perché le mani sono correlate al nostro cuore, quindi noi possiamo stendere le braccia lateralmente, se abbiamo poco spazio anche verso terra, e iniziare proprio a stringere e mollare, stringere a pugno e mollare le mani fino verso l'alto, saliamo su e poi ritorniamo piano giù. E questo esercizio inizia proprio a riscaldare il corpo, a riattivare la circolazione, a pompare sangue, diciamo, e a permettere al nostro cuore, appunto, di raggiungere quel battito calmo e regolare. Tra l'altro è utilissimo anche a chi soffre spesso di pressione alta. Ricordiamoci che ogni postura ha delle controindicazioni, ma quando parliamo di piccoli esercizi di consapevolezza, qui non abbiamo controindicazioni. Allora, un'indicazione per i nostri ascoltatori: dove trovo un elenco di scuole certificate, allora, in cui so che guarda, un rischio. Allora, ce ne sono tantissime. Quella a cui io rimando anche i miei allievi o chi incontro è l'Associazione Italiana Insegnanti Yoga, ovvero IANI. Questa è un'associazione abbastanza seria, ma io ribadisco, fidarsi anche spesso e soprattutto del proprio intuito, della propria pancia. E a proposito di pancia, un consiglio per una respirazione che ci rimetta in asse? Ritornare appunto alla pancia, quindi ritornare all'altezza dell'ombelico, portare l'attenzione sul respiro. Il respiro consapevole significa iniziare a inspirare percependo che l'addome diventa come una fisarmonica che si espande, ed espirare e svuotare questa fisarmonica, questo palloncino, farlo almeno per 10 volte. Questo lo possiamo fare quando dobbiamo trovarci, per i signori uomini o tutte le persone che lavorano davanti al pubblico, davanti a un pubblico, e vogliamo ricentrarci, 10 minuti prima facciamo questo esercizio. Quando dobbiamo magari anche allenarci fisicamente con un impegno fisico notevole e stressante, facciamo questo esercizio. Ma semplicemente siamo sul tram, siamo in macchina, questo esercizio lo possiamo fare. Arriva una brutta notizia, come dicevi prima, e dobbiamo reagire nella maniera più centrata possibile, ritorniamo sulla pancia, perché noi siamo troppo di testa, ma questo ci porta negli automatismi. L'ombelico, non a caso il centro del mondo. Esatto. Allora, sul sito di Benedetta Spada trovate tante indicazioni, video, anche sulle nostre pagine che abbiamo postato degli esercizi con Benedetta, quindi io mi sento già meglio, no? La pancia un po' tartaruga e un po' tartaruga rovesciata. Ce l'avevi già. Adesso, la rovesciata ce l'ho io. Ho fatto anche la posizione sulla scrivania, non del pavone. Che posizione ho fatto? Io l'ho chiamato un loto. Io l'ho chiamato l'incrocio magico. Un loto. È sulla mia pagina di Facebook, okay. Però la metto anche su quella del programma, tanto Nicoletta mi autorizza, per cui possiamo, come sempre, allietare i nostri ascoltatori. Grazie con Benedetta. Momenti. Grazie a voi. Benedetta, grazie molte per essere stata con noi. Ci hai aiutato anche un po' ad affrontare la seconda parte del programma, che è mediamente un po' più ostica per molti ascoltatori. Voglio raccontare questo retroscena agli amici da casa. Adesso sentiamo